voce allegra e bella dello spazzacamin. S'affaccia alla finestra la bella signorina, con voce graziosina chiama lo spazzacamin. Prima lo fa entrare e poi lo fa sedere, dà da mangiare e bere allo spazzacamin. E dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto, gli fa vedere il buco del camin. Quello che mi rincresce è il mio cammino stretto, povero a salir. Non dubiti signora, son vecchio del mestiere, so fare il mio dovere su e giù per il camin. E dopo 4 mesi la luna va crescendo, la gente va dicendo dello spazzacamin. E dopo 9 mesi è nato un bel bambino che assomigliava tutto allo spazzacamin. E dopo 9 mesi è nato un bel bambino che assomigliava tutto allo spazzacamin. Assomigliava tutto allo spazzacamin.